Beh, intanto era assolutamente inevitabile perché il paese sta veramente vivendo un momento, come dice lui stesso, come ha detto lui stesso, historique, no? Un momento abbastanza importante, con questa collera, con questa indignazione di questo movimento che sappiamo è stato analizzato via via in corso di crescita, diciamo di evoluzione, un movimento sicuramente variegato che diverse correnti politiche e partiti hanno cercato via via di cavalcare, e resta comunque sì un qualcosa di sorprendente, sia per da un lato anche un po' per quelle questioni effettivamente legate alle violenze urbane, sia perché comunque le rivendicazioni sociali restano un qualcosa che è condiviso abbastanza condiviso dalle persone. Peraltro da questi sondaggi risulta appunto che, nonostante le violenze, insomma, le questioni sociali, economiche e anche le questioni democratiche, insomma, di una sorta di disamore verso la politica, anche proprio un distacco da Macron stesso, insomma, dalla figura del presidente e dalle autorità del governo. Quindi era un momento in cui era necessario, assolutamente indispensabile per lui prendere una posizione. Peraltro ha atteso la manifestazione di sabato 8, aveva dichiarato: non parlerò prima della manifestazione, proprio per non gettare olio sul fuoco, ma era assolutamente, non poteva aspettare altro. Aveva anche dichiarato che lunedì mattinata avrebbe ascoltato più possibile chi fosse pronto, diciamo, a in qualche modo a negoziare, o comunque insomma a portare a livello istituzionale le rivendicazioni. Sappiamo che anche su questo movimento è piuttosto sfaccettato, no? Ci sono contraddizioni anche nelle rivendicazioni, e c'è chi, e questo forse era quello che si temeva, no? Che lui volesse in qualche modo dividere questo movimento, perché c'è chi poi ha una parte, diciamo, più aperta alla negoziazione, ad esempio, e su questo lui è un punto che ha insistito molto, il rapporto con i sindaci, no? con le associazioni, i comité d'élu, dunque tutti quelli che in qualche modo partecipano alla vita attiva a livello locale e regionale, sono quelli poi che hanno, su cui anche aggravato, diciamo, poi certe misure, no? Contro di riduzione dei servizi sociali, su cui pesano poi le realtà di villaggi, di campagne, di periferie, insomma. Di conseguenza questa apertura ne ha fatta un po' il punto, perché sul suo discorso ci sono stati due fronti, anzi, diciamo, l'introduzione, avete sentito che è stata una presa di posizione contro la violenza, su questo è stato molto intransigente. Sulla questione invece poi sui due aspetti delle rivendicazioni, che sono sostanzialmente sociali, e dall'altra parte che sono politiche, nel senso di, perché è un movimento che si può dire antipolitico, no? Antipolitico perché si richiede, cioè una parte, diciamo, che richiede addirittura di mandare avanti, diciamo, questa sorta di andamento spontaneo, quindi contro le varie negoziazioni. Ci sono anche sull'organizzazione delle manifestazioni, ad esempio, c'è una parte che insomma non richiede di continuare questi incontri, diciamo, di piazza, queste manifestazioni spontanee senza organizzare dei servizi d'ordine, eccetera, che è una cosa abbastanza poi destabilizzante. Infatti sabato scorso la manifestazione, in previsione di questo, si erano dispiegate una quantità di forze dell'ordine incredibile, veramente mai vista in tutta la Francia, soprattutto a Parigi. Quindi sulla parte, ecco, diciamo, della successiva, nel cuore, nel contenuto, quello che tutti aspettavano, ha fatto delle concessioni, indubbiamente. Ora, ad esempio, l'intervento di Mélenchon subito dopo è stato piuttosto critico, perché intanto ci si chiede dove prenderà, no? Quali sono i fondi su cui riuscirà a mantenere queste promesse, perché lui ha detto, quindi, tutti i lavoratori dal 2019, tutti i lavoratori che hanno, diciamo, il salario minimo, insomma, lo SMIC, vedranno un aumento di 100 euro nette, senza che questo costi sugli imprenditori. Quindi questo vuol dire che in qualche modo, appunto, Mélenchon sottolineava, dice, vuol dire che in qualche modo comunque i fondi vengono ripresi dalle imposte. Non so perché in realtà il governo aveva già mantenuto, perché faceva parte delle sue promesse durante la campagna elettorale, aveva già previsto, e quindi anche in qualche modo era passato al Parlamento, insomma, questa questione dell'aumento, però mi pare che fosse intorno, insomma, ai 30 euro, quindi era qualcosa di più basso, diciamo, rispetto a quello che lui poi ieri ha promesso, e comunque diluito nel tempo, cioè era stato sospeso, insomma, per cui, facendo i conti, potrebbe essere che queste 100 euro in realtà sono già di meno, no? Perché erano già state in qualche modo previste nel budget, però si tratta per lui di dare un segno immediato, no? Infatti ha insistito sul fatto che deve essere veramente un segno, che, diciamo, un miglioramento delle condizioni di vita che le persone devono trovare in tempi brevi. Lo stesso si è rivolto anche alla, come misura anche che ha affermato, insomma, che ha dichiarato, quindi non è che potrà tornare indietro a questo punto, anche perché non si saprà poi l'appuntamento che era stato dato dai Gilets Jaunes ancora per sabato prossimo, però adesso non credo che si siano pronunciati ancora stamattina su quello che accadrà. Comunque sicuramente il discorso di Macron, insomma, susciterà qualche dibattito, insomma, cioè un grande dibattito per vedere, per capire se poi si proseguirà comunque con le manifestazioni o no, che alcune misure erano in effetti ingiuste. Ha dichiarato di essere partecipe, quindi, che di alcune rivendicazioni del movimento, ha detto, a parte la violenza, alcune di queste rivendicazioni sono effettivamente giuste e molti le possono condividere. Ha parlato della tassa, di un movimento nato, no, contro la tassa effettivamente, e questa è stata annullata dal governo. L'ha insistito su questo perché sabato scorso già era stata dichiarata il giorno prima da Edouard Philippe, dal primo ministro, insomma, l'annullazione della cancellazione della tassa, però non ha impedito poi ormai, come dire, al movimento di esprimere tutta la sua rabbia, perché è diventata poi una serie di, sono diventate delle rivendicazioni più vaste, no? Più generali, come appunto questa percezione. E Macron ha insistito anche sul fatto, mi rendo conto anche di aver forse anche ferito nei miei discorsi a volte, di essere qualche modo allontanato. Sì, ha fatto proprio, si è mostrato anche nel, così, anche nella solennità di questo suo discorso, ha tentato di probabilmente di ricostituire anche un'immagine, no? Ha insistito anche sulla sua legittimità in modo piuttosto anche populista, insomma, ha detto io tiro la mia, diciamo, la mia legittimità si fonda su di voi, no? Si è espresso rivolgendosi ai cittadini e non da partiti, cioè ha ricordato in qualche modo che la France en marche nasce come qualche cosa che doveva in qualche modo mostrare un diverso modo di fare politica, no? Antipartitica, e lui stesso, insomma, era un po' doveva costituire un po' il volto nuovo di questa della Francia, insomma. Poi ha toccato anche dei momenti molto emozionanti quando ha detto appunto che ricordiamolo, facciamo amo la Francia e ricordiamo che siamo un popolo che ha aperto, no, sentieri per noi e per il mondo, insomma. Quindi c'è un inglobamento anche ideologico di queste che sono le rivendicazioni, no? Cioè, c'è tutto un dibattito in Francia, ecco, questo movimento assomiglia alla rivoluzione francese, assomiglia al 68, ci sono filosofi, antropologi, se ne parla su France Culture. C'è stato anche Marc Lazan, direttore di storia di Sciences Po, che tra l'altro è un esperto anche dell'Italia, della politica italiana, e quindi gli era stato rivolto anche come domanda quali punti potevano essere in comune con alcuni aspetti di rivolte italiane. Per esempio citava il movimento dei Forconi, no? E lui, peraltro questo può essere interessante per noi, diceva la differenza tra perché in un certo momento di crisi o di disagio di una grande fetta di popolazione, insomma, i francesi scendono in piazza con questo movimento, no, e magari gli italiani no. Beh, ecco, lui lo spiegava sul fatto che, riconducendo al famoso movimento nato in Francia, che è stato in Sicilia, scusate, il movimento dei Forconi, che era appoggiato in qualche modo da 5 Stelle e poi anche Lega, con questo patto di governo, questo nuovo governo, in realtà, come dire, il malcontento sono quelle persone che poi hanno votato, no? E 5 Stelle, quindi in qualche modo è stato assorbito, inglobato, mentre qui, insomma, sì, ci sarà qualche macroniano pentito, però di fatto la rivolta tocca una fetta di popolazione che sono, appunto, come lui stesso Macron l'ha ricordato, no? Sono i pensionati deboli, sono le donne, magari le famiglie monoparentali, sono i salariati che insomma guadagnano quel minimo che quindi non sono neanche, tra l'altro si sottolinea, non sono neanche poverissimi all'inizio, adesso sono anche stati raggiunti da magari disoccupati, da chi non ha neanche il salario, però di fatto si costituiva un po' come quel piccolo ceto medio che sta soffrendo perché alcune misure non erano, infatti lui l'ha detto, ma non siamo andati abbastanza rapidamente nel mantenere, diciamo, alcune promesse. e non è tornato indietro sulla ISS, cioè l'imposta sulla fortuna, perché perché l'ottica liberale è quella, l'ha ribadito, insomma, per muovere gli investimenti bisogna che questa non si può tornare indietro, sosteneva, quindi, e questo forse sarà un punto di scontento che continuerà, perché di fatto il movimento si prende una connotazione economica come rivendicazione, ma anche sociale e politica, nel momento in cui si crea questa frattura, no? Ci si interroga sul fatto che Macron incarna un po' l'élite di chi, parigine, per un po' bobo, come si dice, per cui si crea questa frattura, no? E, insomma, certo. C'è statistiche che dicono, insomma, gli elettori di Macron erano grosso modo in grande maggioranza laureati, quindi comunque che sono, come dire, alla briga, sono abbastanza riparati da questi problemi.